24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Non vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Sentite un po' come si esulta per un gol in Colombia. Il gol di James Rodriguez, meglio di un quadro di Picasso, dice. Che golazo de James, una pintura, come se fuera un Picasso. Un Picasso. Il pecho si cae la pierna zurda. Cari italiani, noi siamo ormai con i giocatori e le veline in vacanza a Formentera e questi lì esultano così. Che invidia, che invidia. Questi sono i mondiali, eh. Che lindo, che golazzo. Che golazzo, che golazzo. Mi paese lo merece. Colombia tiene uno, Uruguay zero. E vabbè, Uruguay a casa, anche l'Uruguay. E abbiamo iniziato così per dare un po' di gioia. I mondiali continuano, Qui invece inizia la 61esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Ma abbiamo scoperto che forse è veramente decisiva per la riforma del Senato, ma anche se Forza Italia ha detto non è decisiva. Azzo, che miseria. Ah, c'eravamo quasi. Vabbè, pazienza, dai. Se non sarà decisiva la 61esima, ci sarà la 62esima e noi abbiamo fiducia. Allora, intanto alle 6.33 minuti, questo è 24 mattino, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Vescapè lì in regia. Mancano 20 sveglie all'alba, anzi 19 perché oggi l'ho già fatta, 19 sveglie all'alba e poi sono in vacanza. E questa è la notizia della settimana, non decisiva ma della settimana. Apriamo il Parlamento perché oggi è tornato. Oggi c'è un caffè, si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oggi è con noi. Forza, forza. Oggi è più combattivo che mai il nostro mitico Albertone Forchielli. Buongiorno Alberto, come stai? Ciao Alino, sto benissimo. Da Hong Kong, da Hong Kong. Sono preparatissimo, Dopo il bidone l'altra volta, sono sveglio dalle 7, ho già fatto tutta la rassegna stampa, ho letto tutti i giornali del mondo, se vuoi ti faccio anche una lezione, potrei fare un telegiornale da solo, sì. Comunque potrei anche farti una lezione sul califfato di Mosul, per esempio, vabbè, se potessi interessare. No, vabbè, il califfato di Mosul magari. Ah sì, sì, perché l'ISIS. L'ISIS, sì. Che è quel gruppo di Al-Qaeda, ha dichiarato formalmente che c'è il califfato di Mosul, perfetto. Cui c'è uno stato attraverso che prende un pezzo di Siria e un pezzo di Iraq. Sì, ma non è che lo dichiarano così e quindi adesso sull'Atlante mettiamo lo stato del califfato di Mosul. Intanto, Io ti dico lo Star, in prima pagina del Financial Times. Ah, è fantastico. Ah, il califfato. Vabbè, capite per perché... dire il livello. Io leggo la Gazzetta dello Sport e Alberto Forchielli il Financial Times. Mi sembra giusto. Questo è il Sono di Bologna, io ho messo con la petta al culo. Allora, ho festeggiato il 50esimo dello scudetto che... Ancora non c'aveva neanche i soldi per la fiduzione per la Serie B. Vabbè, visto che siamo al calcio, ma li segui un po' i mondiali da Hong Kong? Hai visto, avrai visto quest'Italia ormai ormai ciao. Eh? Vabbè, tra un po' si dimette Renzi per la sconfitta dell'Italia. Il dramma è Galan che non si dimette, ma Renzi sì. Si mettesse Galan ancora, ma sta per dimettersi Renzi, no, visto il dramma italiano. Purtroppo, sai, tutti si sperava che Prandelli fosse un nuovo Bartali, che ci salvasse da una nuova catastrofe come Bartali con la famosa vittoria del giro del 48, salvò l'Italia dalla rivoluzione dopo l'attentato a Togliatti, ma così non è stato. Non è stato. Sì, no, guarda, la cosa incredibile è che i mondiali sono seguiti in America, cioè una roba che non ho mai visto prima, in tutti i bar vai fuori, non sai chi c'è, non c'è più baseball, c'è mondiale. Adesso il calcio. Qui pure, solo che qui sono 12 ore di fuso, per cui le partite non si riescono a vedere. Ah no, certo, a Hong Kong lì, poi le asiatiche, la Sud Corea è data fuori, basta, chi c'è? Niente. No, ma qui a Hong Kong seguono molto la Premier League, il campionato italiano, solo che non si possono vedere le partite, sono 12 ore di differenza, capito? Cioè, piena notte giocano per me. Effettivamente quello sì. 12 ore. Però sui giornali tutto. Sono strainformati. Ma non è che... Vabbè, ma invece qua l'Italia niente. No, perché abbiamo sentito all'inizio come esultano in Colombia. È bello sentire così che c'è gente che gioisce ancora per il mondiale, mentre noi siamo a casa da mo. Vabbè, ti piacciono queste metafore dell'Italia, che quelle che paragonano il paese con no, come vanno i mondiali rispetto a come è lo stato del paese? Io non sopporto queste metafore, però magari tu dici, ecco, è l'emblema di come siamo italiani, con le pezze. Sì, in parte. In parte. Sì, un po' così, un po' svogliati, un po' che non corriamo abbastanza, capito? Senza questa energia, vedi i paesi emergenti, Algeria, Costa Rica, Colombia, questa è la differenza. Tutte le palle, tac, capito? Ma questo sì, in parte riflette. No, però la cosa più incredibile di oggi è che dopo tutto sto tant'anni di Renzi, di Fonzi, che sembrava che avesse rivoltato il patto di stabilità, che l'Unione Europea, stamattina c'è un articolaccio di Schaub, il ministro delle finanze tedesco, dice Renzi cosa? No, ma dove questo articolo? Adesso è l'articolo su Financial Times. Il titolo dell'articolo parla di Camerun, dell'uscita dell'Inghilterra. Sì. Ma dentro dice, ma non ne parliamo neanche, patto di stabilità, niente, è venuto Renzi qui, se vuoi te lo leggo cosa dice. Se vuoi te lo leggo, però mi devi dare un secondo che devo accendere. Accendi questo. No, intanto io ti dico, insomma, è interessante. Cioè Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, dice: ma altro che Renzi, questo sul Financial Times. No, perché attenzione, c'è un'intervista, che questa non avrei visto, oggi sul Corriere della Sera, quindi io ce l'ho qui davanti, con il sottosegretario Delrio, che propone... che dice una serie di stronzate incredibili. Non c'entra niente con la roba che dice Schaub, aspetta però, perché il sottosegretario Delrio fa una proposta per abbattere il debito pubblico, siccome anche tu ci hai spiegato tante volte che il debito oltre i 2.000 miliardi di euro è un po' il macigno su cui ci teniamo al collo. Eccola qui, senti la proposta, la proposta, quella avanzata da Romano Prodi e Quadrio Curzio, gli Euro Union Bond, cioè la mutualizzazione del debito. Si crea un fondo federale europeo al quale ogni Stato conferisce un pezzo del proprio patrimonio immobiliare e non. Così si abbatte del 25-30%, si alleggerisce il debito, che non so, può essere questa una soluzione? Ma no, allora adesso ti dico questa roba qui. The German finance minister brushed aside, cioè vuol dire ha proprio buttato via le ortiche e le recenti richieste per maggiore flessibilità dello stabilità del patto di stabilità per permettere ai paesi indebitati maggiore possibilità. E questo sì, dal centro-sinistra, including Prime Minister Matteo Renzi, vabbè, ma è chiaro, cioè loro sono per il rigore, la flessibilità. Sì, no, sì. Allora, tornando a quel discorso lì, prima di tutto Prodi, adesso Del Rio lì, non so, per me non l'ha capita ancora. Poi è un dottore, 8 figli, che non l'abbia capito. Cosa c'entra? 8 figli, non è che può capire tutto. Di solito i dottori d'economia non capiscono un cazzo. Allora, Prodi parlava di mettere come pledge le grandi reti e le grandi infrastrutture. Invece Del Rio, nell'articolo di stamattina, perché stamattina per prepararmi, capito, ho letto tutto, capito, ho letto anche i necrologi. Sì, vabbè. Ha detto mettiamo il patrimonio immobiliare, ma insomma non lo vogliono capire che gli immobili italiani non li vuole nessuno. Non li vuole nessuno, ma come? Perché non li vuole? Ma Alino, costano un euro di Dio da mantenere, costano un euro di Dio di IVU, costano un euro di Dio di Tasi, non ti danno una briciola d'affitto, nessuno che vuole affittare niente, ma cosa te ne fai? Capito? È inutile che te la stiamo a menare con la storia di vendere degli immobili che sono solo una spesa. Io sono pieno di immobili di famiglia, capito? Tutti gli anni l'IMU può fare un bus in Mercedes. Gliel'ho detto io una volta anche in televisione, i miei immobili. Solo gli immobili di famiglia che sono in famiglia, ogni anno di IMU partono delle cifre che non finiscono più. Più la manutenzione, una cosa e l'altra, è inutile pensare che il mondo ci dia i soldi su della roba che non va un cazzo. Prodi parlava di grandi reti infrastrutturali, che era un altro discorso. Invece gli immobili sono carta straccia, anzi costano troppo. Sì, sono le robe che dice un dottore. Fagneria è un dottore, prendono tempo, capite? Se i figli grandi, più tempo di stare su queste cose. Ma no, ma è stato sindaco, è stato adesso sottosegretario. Ho capito, ma queste robe qui bisogna un attimo. Vabbè. Poi magari se faccio un ginocchio ne sa più di lui, però su questa roba chi fai parlare a me? Vabbè. Allora, poi l'idea di Prodi l'ho sentita in anteprima, io in diretta sul divano. L'altra me la sono sentita, io l'idea di Prodi. Ma allora, vabbè, e abbiamo sistemato quindi questa proposta di Del Rio come... Dice che alla fine da Parigi hanno portato a casa 10 miliardi di euro, sì o no, che poi alla fine un cazzo, cioè non serve assolutamente niente. Ecco, appunto, giusto per essere sempre ottimisti. Ma allora, invece, ti piace l'idea di Renzi che mercoledì farà il discorso, tra l'altro dicono i giornali, farà il discorso all'Unione Europea per la prima volta, non va a braccio ma sente l'importanza dell'occasione, quindi si sta scrivendo tutto il discorso e dice avanti, è il momento della generazione Erasmus, la generazione dei giovani, la generazione sua. Sì, ho capito, ma sono tutte, capito? Allora torniamo alla ripresa della giacca di Letta qui, l'Europa, per uscire da questo problema ci vogliono delle robe concrete, capito? Ci vogliono delle proposte concrete, è inutile stare a fare dei grandi discorsi, alla fine se vuoi fare il paragone con i mondiali, i gnocchi li fanno quelli che corrono di più, sì. È inutile che li fanno un grande discorso dell'Erasmus, l'Europa si aspetta da noi delle riforme tangibili, non delle chiacchiere per allentarci, per darci una mano. Non per e esempio ancora... non la riforma del Senato, forse si aspetta, di cui non gliene frega nulla. Non gliene frega niente, però già, capito, sarebbe un passo verso una migliore governance. Comunque non è al top delle priorità, loro vorrebbero delle riforme economiche serie, no, più che delle riforme istituzionali o costituzionali. D'altro canto così è, però a me sembra, io in Senato sono contento, ma penso che non farà neanche quello. Ma no, ormai quando tu mi chiami, sì, Cioè, è come fare un esame, è come fare patologia medica per me. Perché? Io mi devo preparare 5 giorni prima, perché una volta già la politica italiana era complicata, ma adesso è un disastro, perché ci sono 3 decreti, 4 progetti legge, 18 idee, 4 chiacchiere, 7 pettegolezzi, cioè con Renzi si muovono talmente tante cose, sì, che non riesci più a distinguere quello che è vero, quello che non è vero. Turbo Renzi. È Turbo Renzi, corre. Sì, fa. Sì, però poi dopo non sai cos'è una chiacchiera, oppure cos'è una roba che è in commissione, cos'è una roba che è in gazzetta ufficiale, cos'è una roba che è consiglio dei ministri, cos'è una roba che sta passando alla Camera, cos'è l'idea di un pirla qualsiasi, capito? Cioè, non riesci a capire, capito? E per cui ci sono addirittura dei giornali che fanno proprio dei 2 pagine con i quadretti, no? Da quadrato, poi idea tal, semaforo verde, semaforo giallo, punteggio 4, capito? Per dare un'idea. Per cercare di capire. Sì, comunque. All'ippodromo. Addirittura sull'ippodromo, no? Allora, Alberto, stai con noi, devo andare a dare le informazioni sul traffico, poi la segreteria telefonica e torno da te. Siamo con Alberto Forchielli. 24 mattino. Alessandro Milan, mi hanno insegnato che eroe è chi volontariamente e coscientemente rischia la propria vita, o addirittura come salvo d'acquisto offre la propria vita per salvare altre vite umane. E allora cosa c'entra con l'eroismo chi perde la vita per disgrazia, per colpa di un tifoso delinquente che spara? Ciò comporta un dolore immenso per tutti, una sofferenza terrificante specialmente per i propri cari, ma si tratta comunque di sfiga, sfortuna, non di eroismo. Messaggio per tutti gli automobilisti, tassisti, forze dell'ordine: le strisce pedonali non sono fatte per essere tirate su col naso, ma vanno rispettate. Non vi fermate mai quando uno è lì che aspetta per passare. Sono 8 punti di patente. Per favore, Milan, faccia sapere che perdono 8 punti. Non le rispetta nessuno. Nessuno. Poi succedono gli incidenti. Se Garibaldi dal 1861 sarà fatto di cazzi sui, saremo in un altro modo. Tutti uguali di fronte alle leggi, può essere pure il Padre Eterno, il Santo Padre, e il meno che vale sulla terra, di fronte alla legge dobbiamo essere tutti uguali, nessuno protetto. Se hai ragione, hai ragione, se hai torto ti meriti la punizione. Alessandro, mandale in onda che tutti i parlamentari, dal primo all'ultimo, lo debbono sentire, che noi italiani non la vogliamo l'immunità per loro, debbono essere puniti come noi. Vabbè, l'immunità, l'impunità, tutti uguali. Siamo con Alberto Forchielli da Hong Kong. Alberto, almeno hai visto, si muove qualcosa? Già mi viene l'ansia, si muove qualcosa forse sulla legge elettorale? Renzi e Grillo, no, Renzi e il Movimento 5 Stelle si sono visti mercoledì. Non lo so. Dico. Mercoledì da buffoni. No. Voilà. No. Ma Renzi non ha ancora capito che sta spingendo le nuvole, che sono morbide. Sono morti chi? Sono morbide. Ah, sono morbide. Renzi sta spingendo le nuvole, ma sono morbide. Anche la storia di quel mercoledì. Cioè, sono mercoledì da buffoni. Da buffoni. Mattarellum, Porcellum, Italicum, Democratellum. Ma perché scomodare i latini per farci passare da cretini? Eccolo. Vabbè, niente, anche questa l'abbiamo. Vabbè, ma ho capito, ma qualcosa si farà e adesso. E poi chi era? Scusa, tra Renzi lì e Grillo, chi era il wedding organizer? Grillo non c'è. Signorini? No. Poi magari No, no, perché poi ci mettono anche la tassa per pagare l'evento, capito? Bisogna stare attenti a quelle cose lì, eh. No, meglio che facciano, meglio che usino Skype, perché altrimenti qui, capito? A parte che Grillo non c'era, c'erano. Sì, c'erano... lo so, però ci sono i contratti, poi sì. Renzi c'era, capito? Renzi c'era. Sì, no, ma io sono preoccupato per i costi. No, poi volevo sapere, perché magari lo uso anch'io, un'altra volta, sono venuto bene. Signorini, mi hanno parlato molto bene dei signorini, quindi. Beh, insomma, visto che hai parlato di coppie o diciamo così unioni civili, sai chi ha fatto l'apertura per le coppie, per le unioni civili? Un'apertura un po' inaspettata, eh? Ah, non la sai. Berlusconi. Francesca Pascale, la sua fidanzata, si è iscritta all'Arcigay, ha preso la tessera, ha detto bisogna aprire alle unioni civili, siamo liberali. Bisogna fare. Senti cosa diceva Berlusconi nel 2010. Nel 2010 Berlusconi diceva questo. Io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Eccolo lì, così diceva, meglio appassionati delle belle ragazze che gay. Adesso l'apertura così. Io meglio un'apertura che una chiusura, almeno l'ha fatta. Che sono tutte cose ipocrite, perché tanto poi non è lui, certo non è di una cultura liberale, comunque sono tanto quello per raccattare voti, cos'è che si era messo lì coi cani, con la pappa dei cani, il salvataggio dei, cioè non si è capito, lasciamo perdere, dai parliamo di cose serie, Ma guarda che questa apertura, cioè, vabbè, allora visto che non sei contento ti faccio sentire la mazurka. Sono contentissimo per i gay, poveretti, capito? Solo che non mi sembra. Poveretti. Che vuol dire? No, nel senso che, capito, non è l'apertura di Papa Francesco, ecco, voglio dire. Ecco. Capito? E non mi sembra neanche una roba da occupare tempo radio televisivo. Mm-hmm. Vabbè, allora ti faccio sentire la mazurka. Sei appassionato di mazurka? No, sono un disastro a ballare, però mi piace l'idea. Senti Berlusconi e Cesano Maderno, sai che fai se... il primo video apparso su Repubblica.it c'è Berlusconi in camice bianco da... Vabbè, c'è la mazurka e poi cosa va avanti? Niente, così, mazurka. Passa le giornate così. Com'è sta mazurka, Alberto? Si arriva fino a Hong Kong? Sì. No, invece, cioè, è Berlusconi, è Cesano Maderno. L'ho fatto popolare, cosa ti dico? Cioè, è una roba, è una cosa divertente. Vabbè, ma dai, su questo. No, io vivo in provincia, quindi sono queste cose. Non sono certo snob. Mi fa sentire una mazurka, ascolto volentieri. Vabbè, ma io sono convinto di una cosa, che insomma, se mi chiedono di ballarla mi vergogno, però sono invidiosissimo di quelli che la sanno ballare. Ecco, io so che ci sono tantissime persone che dicono: ma perché Alberto Forchielli non si butta in politica? Non so, trovare queste luci della ribalta, questa voglia di... Non è che ti... sotto sotto in realtà ci pensi? Guarda, alle luci della ribalta preferisco le luci rosse. vabbè, mille volte. Sì, e vabbè, la luce della ribalta. Io parlo una volta ogni tanto con te e basta, li sistemi tutti. Penso a te quanto mi interessa la luce della ribalta. Poi c'ho una pancia che è un cocomero che non passa dalle porte. Voi che vada. Vabbè, questo non saresti il primo politico. Ne abbiamo, soprattutto in passato, ne abbiamo visti. Sì, ho capito, ma non è che sia una cosa, capito? Quindi non è che però luci rosse va bene. No, va bene, va se bene. Mi fai scegliere. Va bene, sì, ma non era proprio questa la domanda. Non era luci della ribalta o luci rosse. Comunque, vabbè, che ci dobbiamo attendere dunque nei prossimi giorni? La presidenza della Commissione Europea, cioè, così ti salutiamo, la presidenza dell'Unione Europea per il semestre, cioè, niente, ovviamente non cambierà nulla. Niente. No, molte chiacchiere. Penso molte chiacchiere, non vedo la situazione economica positiva affatto, tutti parlano del problema dell'Italia, dei consumi, sì, ma il vero problema dell'Italia è che non ci sono investimenti, questo è il problema dell'Europa. Gli investimenti non ci sono e poi l'Italia c'è anche un problema di export molto forte, non tiene sulla, non è al di là dell'euro che è troppo alto. Quindi non possiamo, una stabilità, ossia stiamo qui nella nostra condizione, che potrebbe essere peggiore, che però non è destinata a migliorare nei prossimi 10 anni, non c'è nessun episodio prevedibile che possa far pensare che che possa migliorare. Possiamo star meglio di oggi. Va bene, allora Albertone, noi iniziamo con questo tuo messaggio realista, questa 61esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, la riforma elettorale. Ti ringraziamo, ciao Alberto Forchielli, alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti. Buongiorno cari italiani, forza, forza! Il mio grido ai debosciati d'Italia si elevi dagli studi di Radio 24 per raggiungere ogni angolo del nostro paese. Forza, è il momento di produrre, visto che si è aperta ufficialmente ormai la 61esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 61esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ma forse la settimana decisiva per la riforma del Senato, o forse no? Attendiamo con molta ed estrema pazienza, non ci facciamo davvero scoraggiare da dei piccoli ritardi o degli ultimi intoppi che potrebbero avvenire all'ultimo secondo. Intanto noi vogliamo parlare alle 8:15 di questa vicenda che coinvolge il canone della RAI e moltissime imprese, moltissime partite IVA. Anche voi avete un'impresa, anche voi avete una partita IVA e avete ricevuto l'intimazione a pagare il canone speciale da 407 più o meno euro, virgola qualcosa. Ne parleremo alle 8:15, avremo ospite il sottosegretario all'economia Giovanni Legnini, avremo ospite anche il direttore della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese di Comolecco, Alberto Bernia, che tra i primi ha lanciato questo allarme. Cercheremo di capire di cosa si tratta. Avremo ospite anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, questo alle 8:45. E con questo menù di ospiti andiamo invece a leggere i giornali che troviamo in edicola. In questo lunedì 30 giugno, intanto i titoli per il Sole 24 Ore, l'apertura del lunedì è questa: fisco è sempre corsa ai bonus, un nuovo sconto ogni 15 giorni. Il Corriere della Sera invece ha un'intervista al sottosegretario Delrio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, così possiamo tagliare il debito. Questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica invece un'intervista al ministro del Lavoro Poletti, cassa integrazione, allarme del governo, manca un miliardo. Il titolo di prima pagina. Il giornale apre proprio sulla vicenda della RAI, i nuovi esattori mangia soldi di Stato, ecco gli 8 componenti del CDA della RAI che pretendono il canone farsa. Per La Stampa invece pagamenti elettronici, la rivolta degli autonomi, la cosiddetta guerra del POS. E vabbè, ci mancava, sul secolo XIX, eccolo qua a spuntare, riforme, sfida decisiva per Renzi. Ah, non settimana, ma sfida decisiva. Per il Messaggero, nuovo Senato, l'immunità resta. Prima però è lunedì e quindi i giornali, gli argomenti cominciano un po' a essere dei più variegati, bisogna riempire le pagine, c'è spazio anche per notizie di cronaca variegate. Allora voglio partire per esempio da quella che è la notizia che trovate su tutti i giornali, visto che molti di voi state pensando alle vacanze, lo so. E allora state facendo il countdown, quanti giorni vi mancano alle vacanze? Ma soprattutto la Coldiretti ha voluto rispondere a questa domanda: dov'è il mare più caro d'Europa? Provate un po' a indovinare se volete andare in vacanza al mare. Dov'è il mare più caro d'Europa? Non dovete fare molta strada, chiaramente è in Italia, qui nel bel paese. Tutti i giornali dedicano almeno una pagina a questa analisi. Eurostat Coldiretti, hotel e ristoranti al top, ci salva il patrimonio artistico ed enogastronomico, racconta per esempio Elena Del Santo a pagina 16 della Stampa. Estate da Salasso, per chi decide di trascorrere le vacanze nel bel paese, quest'anno è la meta più cara del Mediterraneo. L'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurostat 2013, hotel e ristoranti in Italia costano il 10% in più rispetto alla media europea, il che a conti fatti non sono certo noccioline. E sebbene il paese sia sempre molto gettonato, gli incassi dovuti al turismo rischiano una brusca frenata. Secondo l'Osservatorio Nazionale del Turismo, lungo lo stivale nel 2013 si è verificato un calo del 4,3% degli arrivi, che ha interessato sia gli italiani sia gli stranieri. Vacanze in Italia, le più care del Mediterraneo, questo è il titolo anche dell'Unità. La spesa per hotel e ristoranti è superiore del 10% rispetto alla media europea. Anche il giorno vacanze l'Italia costa caro. Ci salvano un po' gli stranieri, anche se sono in calo rispetto agli altri anni secondo le previsioni, ma sono quelli che portano più soldi, soprattutto Emirati Arabi, Cina e Corea del Sud. Queste pare che siano le nuove frontiere del turismo straniero in Italia. La cronaca nera, si sa, la fa da padrone anche d'estate sui giornali, ma oggi il Corriere della Sera ha un articolo di Giusy Fasano a pagina 15 che è una rivelazione notevole per quel che riguarda il delitto di Garlasco. Lo ricordate, l'omicidio di Chiara Poggi era il 13 agosto 2007 e ci sarà ora il nuovo processo per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi e unico imputato. Dopo 7 anni la scoperta, scambiati i pedali delle bici di Alberto. Questa è la memoria depositata dai legali della famiglia della vittima Chiara Poggi, una scoperta che sarebbe incredibile se confermata, secondo i legali è confermata, i legali di Chiara Poggi, e che è arrivata solo 7 anni dopo. Che cosa è successo? C'è una bicicletta nera da donna che una testimone vede davanti alla villetta di un delitto. Ce n'è un'altra, Bordeaux, che su un pedale ha le tracce biologiche della vittima, e 7 anni dopo l'omicidio c'è un colpo di scena. Questa storia comincia nella sede di una storica azienda di Monza che costruisce biciclette, la Umberto Dei. L'amministratore delegato della società ha con sé davanti l'avvocato Tizzoni ed è al telefono con un tecnico del suo magazzino. I pedali di cui parla l'avvocato sono quelli che da sempre loro montano sul modello Giubileo da uomo. Si chiamano pedali Union. Non c'è margine di dubbio. Sigle, gomma, catarifrangenti, scritte, forma, misura, tutto torna, tranne quel dettaglio fondamentale, cioè il fatto che quei pedali non sono stati trovati sulla Umberto Dei da uomo Bordeaux, dove aveva appunto senso che fossero, ma su una più modesta bicicletta luxury nera da donna. Stiamo parlando dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e delle due biciclette di Alberto Stasi. La domanda è: perché mai i pedali Union di una bicicletta sono stati montati sull'altra bicicletta? Dettaglio non di poco conto sul fatto che siano stati scambiati questi pedali. Per quale motivo? E beh, ecco il motivo secondo i legali di Chiara Poggi. La nuova ricostruzione è questa. Quella mattina Alberto usa la bicicletta nera per andare da Chiara, torna a casa dopo averla uccisa, lascia sul pedale tracce del sangue di lei, dopodiché, sapendo di una testimone che raccontava della bicicletta nera, scambia i pedali, convinto che gli inquirenti avrebbero sequestrato proprio quella nera, visto che la testimone ne parlava, e non quella Bordeaux che nessuno aveva collocato sulla scena del delitto. Ma qui le cose addirittura si complicano, invece no, scrive Giusy Fasano. 7 giorni dopo l'omicidio viene requisita proprio la bici Bordeaux e non quella nera, che soltanto dopo 7 anni i giudici fanno sequestrare e portare in aula. Perciò solo adesso è stato possibile osservare da vicino e scoprire che aveva addosso i preziosi pedali della bici Bordeaux scambiati. Questa è una storia incredibile di pedali possibilmente scambiati. Secondo la ricostruzione dei legali della vittima, il motivo è appunto perché lì c'erano le tracce e Alberto Stasi sapeva che avrebbero cercato quella bici e quindi ha scambiato i pedali. Ovviamente tutto confermare come ricostruzione. Ma c'è anche, racconta il Corriere della Sera, una serie di errori evidentemente da parte dell'inchiesta. Per esempio, il maresciallo che quando la testimone parla della bici nera va a casa di Alberto Stasi e dice che la bici nera non ha il portapacchi come segnalava il testimone, non ha il cestino come segnalava il testimone, giura per 4 volte in aula che la bici vista da lui non aveva il portapacchi, e invece si scopre, ora che è stata portata davanti ai giudici, che il portapacchi c'era. E allora, tanto che Giuseppe e Rita Poggi, i genitori di Chiara, hanno addirittura denunciato il maresciallo per falsa testimonianza, convinti che davanti alla bicicletta nera da donna il sequestro fosse praticamente obbligatorio. Davvero si intrecciano nuovi dettagli, i dubbi su come sia stata portata avanti l'inchiesta a questo punto. Tutto sul Corriere della Sera sul delitto di Garlasco. Sempre sul Corriere della Sera si fanno risentire i genitori della coppia. Ricordate il fatto degli embrioni scambiati al Pertini di Roma? Il Corriere della Sera intervista nuovamente i genitori biologici, quelli che sono i proprietari, diciamo così, dell'embrione, che però sono stati impiantati su un'altra donna e quindi ora diventano figli di chi? Della donna che sta portando avanti la gravidanza? Secondo i genitori biologici non è così. Il parto si avvicina e i genitori biologici fanno sapere: i nostri gemelli sono nel grembo di un'altra, speriamo ancora. Pagina 17 del Corriere della Sera, Margherita De Bacchi intervista questa coppia di mancati genitori che dicono: non siamo per nulla rinfrancati, noi speravamo nel dialogo, ma l'altra coppia è sparita. Sono spariti, si sono sottratti alle nostre richieste, non hanno risposto a un'istanza da noi presentata all'ospedale Pertini, dove chiedevamo che ci fossero comunicati i nominativi di queste persone, vorremmo incontrarli, sappiamo che il dialogo è importante e invece ci hanno ignorati, sono fuggiti, non hanno pensato al bene dei gemelli che hanno dei veri genitori, quei genitori siamo noi. Il termine dell'istanza scadeva la scorsa settimana, abbiamo presentato un ricorso al TAR del Lazio dove chiediamo di poter conoscere il nome della signora nella quale erroneamente è avvenuto l'impianto di embrioni che hanno il nostro stesso DNA. Noi intendiamo far valere il diritto fondamentale a essere riconosciuti come genitori dei nostri figli, ma prima di noi i bambini hanno diritto alla propria identità dei genitori e perché anche crescere senza i loro nonni? Perché privarli di tutto ciò? Com'è la vostra vita adesso, poi concludono, è un'assenza di vita. Andiamo al lavoro indossando una maschera per non tradire le emozioni, tutto ci appare scialbo, piangiamo spesso, i nostri bimbetti li sogniamo, cerchiamo di immaginarli come se li accarezzassimo. Beh, questa vicenda davvero non sarà mai chiusa. Poi ci sarà il parto di questi gemelli e immagino la vicenda legale è tutt'altro che finita. Ce ne siamo occupati in passato, davvero una risposta, ognuna la sua, di chi sono questi figli, di chi li sta portando in grembo o dei genitori biologici. Alino Mila, un giornalista da parte alta della classifica, nonostante il cognome. Eh beh, effettivamente. Guardi che il Milan sta risalendo, eh? Se vendiamo anche Kakà, speriamo, per comprare i Turbe, Menez e Alex, magari... Speriamo di cacciare via Balotelli, sarebbe il vero sogno. Prendiamo un attaccante e magari quinti o sesti arriviamo l'anno prossimo. Lasci fare. Allora, oggi sul Corriere della Sera e su Repubblica ci sono due interviste interessanti da cui vorrei partire, perché sono interviste di economia e riguardano la situazione anche in Europa. Per esempio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio parla del dopo Europa, il tema della flessibilità, ma anche con una proposta per abbattere il debito. Con la flessibilità europea, 10 miliardi l'anno, si potrà investire di più. Così Delrio dice sulla flessibilità: non è poco quello che abbiamo ottenuto, perché dal mancato uso della flessibilità già consentita sono arrivati i nostri problemi più seri. Sul 3% però non è una legge scolpita nella pietra, ma non vogliamo essere noi a spostarla sulla sabbia. No, non chiederemo di alzare il 3%, dice Delrio, anche per evitare sospetti e risolini in Europa, anche ricordando che ci sono altri paesi che sforano quel limite in modo palese. Per un certo periodo l'ha fatto perfino la Germania. Ma veniamo qui alla parte chiave dell'intervista a Graziano Delrio, l'intervista di Lorenzo Salvia, che trovate a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Come abbattere il debito pubblico che supera i 2.000 miliardi di euro? La proposta è questa, è quella di Romano Prodi, Alberto Quadrio Curzio, gli Euro Union Bond, cioè la mutualizzazione del debito. Si crea un fondo federale europeo al quale ogni Stato conferisce un pezzo del proprio patrimonio immobiliare e non. Sono garanzie reali che possono essere utilizzate in parte per investimenti strutturali, in parte per alleggerire il debito pubblico. A quel punto non faticheresti più a trovare 3 miliardi di euro l'anno dalle privatizzazioni, ma taglieresti il debito del 25-30%. Continua comunque il percorso di taglio della spesa, dice Delrio, poi parla anche delle riforme, eccetera. Ma questa è la parte centrale dell'intervista, così possiamo tagliare il debito pubblico. Sta di fatto l'altra invece intervista, un'intervista un po' più allarmante al ministro del welfare Poletti, intervistato da Roberto Mania su Repubblica. Lancia il ministro del lavoro un allarme: manca 1 miliardo per il rinnovo della cassa integrazione, scrive Roberto Mania. Intanto non c'è alcuna manovra correttiva all'orizzonte, dice il ministro del lavoro Poletti. Renzi e Padoan hanno detto che non sono previsti nuovi interventi per il 2014. Per me è risolutivo questa frase risolutiva. Ma intanto rispunta l'emergenza cassa integrazione, lo riconosce lo stesso Poletti. Manca all'appello 1 miliardo di euro per rifinanziare quella in deroga. Ecco il senso dell'intervista. Quanto dovrete trovare di risorse per la cassa in deroga? 1 miliardo di euro, risponde Poletti, e siamo a pagina 2 di Repubblica. Non è poco di questi tempi. Vedremo come fare. Possiamo farlo con la legge di stabilità, ma non abbiamo ancora deciso nulla. È la legge Fornero che prevede dal 2014 l'uscita graduale dalla cassa integrazione e dalla mobilità in deroga. Per questo il precedente governo aveva predisposto un decreto per la modifica dei criteri per l'accesso alla cassa e alla mobilità in deroga e ridotto di 1 miliardo le coperture finanziarie. E dunque questo miliardo ora manca. Non credo che oggi ci siano le condizioni tecniche per smontare o cambiare quel provvedimento, e c'è anche un problema di risorse. Nel 2014 abbiamo dovuto utilizzare quelle stanziate per finanziare la cassa in deroga del 2013, che altrimenti sarebbe stata scoperta, e ora dobbiamo trovare le coperture per il 2014. È chiaro che questo è un allarme. Balla 1 miliardo. Nonostante ciò, Poletti rassicura, non ci sono manovre correttive. Il leader CGIL Camusso chiede Repubblica, ha definito la fine della cassa integrazione in deroga un disastro e paventa licenziamenti di massa, migliaia di persone senza più reddito. Esagera? Le protezioni sociali si riducono ma non saltano del tutto, risponde Poletti. Tutti gli ammortizzatori sociali a un certo punto si esauriscono. Mi sembra concettualmente sbagliato sostenere che le imprese licenziano perché non ci sono più gli ammortizzatori sociali. Le aziende licenziano purtroppo quando non hanno più bisogno di determinati lavoratori. E poi Poletti ribadisce la legge delega. La legge delega non prevede interventi sull'articolo 18. Questo nell'intervista a Repubblica. Certo, tutto questo mentre ci apprestiamo al mercoledì in cui Renzi andrà a fare il discorso come inizio del semestre europeo di presidenza da parte dell'Italia. Prima però di mercoledì c'è l'inizio della settimana decisiva. Allora, è decisiva questa settimana per la riforma del Senato o non è decisiva? È decisiva o non è decisiva? Perché a giudicare da alcune frasi è decisiva. Secondo il titolo di pagina 6 della Stampa, Senato settimana decisiva. Secondo invece il Corriere della Sera, Senato Forza Italia frena e neanche il PD ha fretta di votare. Bah! Secondo, si parla sempre di riforma del Senato e non il conteggio delle mie settimane decisive che sono per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Ecco, e siamo alla 61esima settimana decisiva per queste due cose. Questa è la riforma del Senato, è un'altra cosa. Forza Italia comunque frena, scrive il Corriere, non ha senso correre, il capogruppo al Senato Romani non credo che fino a giovedì si tratteranno temi importanti e anche il PD non ha fretta di votare, tanto che il Messaggero fa sapere a pagina 6 asse Renzi Colle su Unione Europea riforme, se non si fanno pronto a votare. Questa sarebbe la linea di Matteo Renzi. Non si fanno le riforme. Tra l'altro il Messaggero con Marco Conti racconta che domani ci sarà il decisivo, ragazzi, non è uno scherzo, vi giuro, non è uno scherzo, decisivo faccia a faccia con Silvio Berlusconi. Questo racconta il Messaggero. Domani dovrebbe esserci e che è importante per sbloccare alcuni punti irrisolti. Ma la mossa B di Matteo Renzi, e in questo ci sarebbe anche un asse con Giorgio Napolitano, se queste riforme non si fanno, allora tanto vale andare a votare nella prossima primavera. Sarà un incontro decisivo quello tra Renzi e Berlusconi? Chi lo sa? Inizierà così la settimana decisiva per la riforma del Senato? Chi vivrà vedrà. Mauro Meazza, buongiorno, ci potrai risolvere tutte le questioni? Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Ma io non so se gli incontri saranno decisivi. Io so che tra oggi e domani ci sono diverse cose decisive. Sì. Ad esempio il fatto che domani decisivamente il prelievo sugli investimenti va dal 20 al 26%, tanto per essere decisivi. Oggi sai che parte anche l'obbligo poi dei pagamenti con Bancomat, però quello forse non è così decisivo perché poi non c'è la sanzione. E poi la giustizia civile, una mossa decisiva, speriamo, per tagliare i tempi, per migliorare le procedure, si passa al telematico nel processo civile. Ah, tra l'altro domani, guarda, c'è anche una riduzione in vista per le tariffe telefoniche, è decisivo. Tutte queste cose è decisivo, lo descriviamo oggi sul Sole 24 Ore, che naturalmente insomma magari non saremo così decisivi, ma facciamo il possibile per esserlo anche tra oggi. L'altro molti giornali raccontano quello che il Sole ha raccontato già da molto tempo, ma appunto oggi diventa sempre più chiara quella che è definita la guerra del POS, no? Sempre più sì. Oggi la stampa fa una pagina, il Giorno fa una pagina, cioè i professionisti sono un po' in subbuglio, diciamo così, no? Sì, sì, ma come sai, appunto, noi abbiamo raccontato anche nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, che in realtà molte categorie professionali hanno anche detto che non è un obbligo, perché del resto non c'è una sanzione. Quindi, insomma, è stato previsto, però non è stato sanzionato, e quindi, insomma, non è tanto decisivo. Un po' come quelle cose di cui parli tu spesso, le settimane decisive. Ecco, questo è un pochino decisivo, però non è del tutto decisivo. Invece è decisivo che i comuni, non so se l'hai colto, la nostra pagina 2 di oggi, ma è carino anche da leggere, i comuni non riscuotono, cioè spesso non riescono a riscuotere. Questo poi è decisivo per i loro conti, perché ci sono lì 33 miliardi che non vengono riscossi, ohimè, e questo poi ricade su di noi. Ma penso che tu abbia, non so se hai colto già la nostra apertura, cioè il nostro titolo più importante di oggi, quello con che appunto spicca nella prima pagina: ogni 15 giorni arriva uno sconto fiscale. Mm-hmm. E dovrebbe essere una buona notizia, però se non sapessimo che con la prossima legge di stabilità tutto l'ammontare degli sconti ultimi ci costerà 17 miliardi, 16-17, adesso non stiamo a guardare il capello. E poi appunto ogni sconto va un po' per conto suo, insomma gli sconti spesso non sono coordinati, anzi non lo sono per nulla. Questo non vorrei che poi fosse decisivo nel tagliarcene qualcuno. Esatto. E la preoccupazione nostra è questa qua. Ecco. Come possiamo cercare di conservarli finché ci sono, magari di razionalizzarli, ma su tutto questo ci sarà un passaggio decisivo, e come no, nella legge di stabilità. È decisivo che io ora è ti decisivo, saluti. È decisivo. Vabbè. Sì. Allora, nel modo più decisivo possibile, davvero, traffico. Carissimi fedeli, ascoltate Alejandro Milan e la sua rassegna stampa, è il chierichetto dell'informazione, palabra de Papa Francesco. Beh, insomma, adesso l'imitazione lascia un po' a desiderare, ma grazie caro ascoltatore, abbiamo anche la benedizione del Papa e quindi siamo tutti più sereni e più tranquilli. Intanto c'è un tema politico che sapete è sul piatto da un po' di tempo, e da settembre sarà ancora più al centro dell'attenzione, che è quello delle unioni civili. E le unioni civili per gli omosessuali anche. E c'è stata una apertura abbastanza inaspettata, si dice, in questi giorni, politicamente parlando. L'apertura è stata quella di Silvio Berlusconi, che già in passato aveva usato qualche frase invece un po' più di scherno, come la famosa frase meglio guardare le belle ragazze piuttosto che essere gay. Aveva detto questa frase e poi c'è stato anche due giorni fa, tra l'altro, Francesca Pascale, che si è iscritta all'Arcigay insieme a Vittorio Feltri. Ebbene, da ieri l'apertura di Silvio Berlusconi: traguardo ragionevole quello delle unioni civili. Finora, fa sapere il Corriere della Sera con Paola Di Caro, si era esposto poco, qualche battuta poco felice sui gay, qualche mezza frase di sostegno, ma ieri ha fatto questa nota Berlusconi: quella per i diritti civili degli omosessuali è una battaglia che in un paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti. Da liberale ritengo che attraverso un confronto ampio e approfondito si possa raggiungere un traguardo ragionevole di giustizia e di civiltà. Questa è l'apertura. Anche Repubblica dedica un articolo che inizia in prima pagina di Alessandra Longo e che poi a pagina 2 e 3 di Repubblica: dopo la scelta della Pascale, Berlusconi, paladino dei gay, la battaglia per i loro diritti deve essere impegno di tutti. E Vladimir Luxuria ha già detto: inviterò Marina Berlusconi al Gay Village. Questo scrive come curiosità Repubblica. Intanto noi ci occuperemo di che cosa? Ci occuperemo di questa ingiunzione che arriva alla RAI, ce l'hanno segnalato anche molti nostri ascoltatori via mail, a molte imprese. Anche voi, cari cittadini, avete ricevuto, magari perché avete un'impresa, una partita IVA, siete artigiani, avete un'azienda, avete ricevuto una lettera da parte della RAI con la richiesta di pagare il canone speciale 407 euro perché avete in azienda degli schermi, dei computer che sono adibiti anche per vedere la TV, Ebbene, tra l'altro, sai, così la legge prevede questo, perché il canone, l'abbiamo detto tante volte, è una tassa su tutti gli strumenti che possono essere adibiti alla trasmissione televisiva. E allora, se siete anche voi tra queste imprese, chiamateci 800 24 0024, dalle 8 i centralini sono aperti, ne parleremo alle 8 e 15. Il giornale titola così: mangia soldi di Stato, ecco i nuovi esattori, gli 8 componenti del CDA della RAI che pretendono il canone farsa. Tra l'altro si racconta che è stata trovata la scappatoia per non pagare questa maxi tassa sulla RAI a pagina 2 del giornale, cioè cambiare il monitor. Il monitor, non mettere più il monitor che avete, ma cambiarlo. Beh, già questo comunque è, come dire, un costo. E comunque il giornale mette: ecco, gli 8 esattori di Stato sono gli 8 membri del CDA della RAI che difendono questo obolo da 407 euro chiesto ad artigiani, partite IVA e imprenditori. Ne parleremo, come detto, alle 8 e 15. C'è un'intervista al ministro alla salute Beatrice Lorenzin sul Messaggero: come cambia la sanità, tutti i dati dei pazienti in rete, task force anti mala sanità. L'intervista la trovate sul Messaggero, appunto, è fatta da Angela Padrone. Basta tagli, ogni euro che risparmieremo sarà reinvestito in servizi ai cittadini, bisogna rivedere l'esenzione dei ticket, bisogna rivedere le nomine di criteri nella scelta dei dirigenti, il criterio è quello della efficienza. Insomma, sono tante belle frasi, tante frasi che vorremmo che fossero rispettate, appaiono più degli slogan, ma secondo il ministro Lorenzin, con il patto alla salute nuovo, c'è appunto questa idea di fondo. C'è anche una polemica che da giorni va avanti, perché il comitato di redazione del Corriere della Sera, cioè la rappresentanza sindacale, si è lamentata molto con la pagina di pubblicità sostegno, diciamo così, che è apparsa sul Corriere della Sera negli scorsi giorni, di sostegno a Marcello Dell'Utri. Tutti gli amici di Dell'Utri, con lo sforzo della moglie, hanno scritto una frase di sostegno. Al tuo fianco, Marcello, era il titolo della pagina di pubblicità comprata sul Corriere della Sera. E il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, è finito un po' nel mirino. Ma ci sono sia l'editoriale di Giuliano Ferrara, non c'è tempo per leggerlo, ma lo voglio segnalare. Il torvo e il liberale spirito di forca di un comitato di redazione, così titola Giuliano Ferrara nel suo editoriale del lunedì. Inizia così: c'è tempo solo per l'inizio. Con la galera, un numero crescente di italiani intrattiene una relazione mentale ributtante, scrive Ferrara. Cominciò Travaglio, che sull'Unità augurò a Contrada, malato, di finire i suoi giorni in carcere. Poi è stato il turno di Cuffaro, premiato con l'ostracismo morale, l'interdizione alla pensione. Ora è arrivato il caso di Dell'Utri, con un gruppo di giornalisti appartenenti a un comitato di redazione che ha sputtanato tutto ciò in cui un giornalista dignitoso dovrebbe credere, a partire dalla libertà di espressione e dal senso di umanità verso un detenuto che anche in questo caso rivendica la sua non colpevolezza ed è stato condannato al termine di un processo ventennale, ultra indiziario e fondato su un capo di reato inafferrabile. Questa è l'opinione di Ferrara. Comunque, dice, è sbagliato. Anche il giornale, con Anna Maria Bernardini De Pace, fa un lungo articolo che inizia in prima pagina. Il senso di questo articolo è: caos per Dell'Utri, ma su Sofri restano tutti zitti. E cioè, scrive l'avvocato Bernardini De Pace, Adriano Sofri, già leader di Lotta Continua e condannato a 22 anni per l'omicidio calabrese, ha scritto per anni per l'Unità, l'Espresso, il Foglio, Repubblica e Panorama. Non risulta che mai nessun comitato di redazione in giornali di destra e sinistra abbia avuto di che lamentarsi, indispettirsi o indignarsi. Invece il comitato di redazione del Corriere della Sera sta facendo una canea sgangherata perché la moglie di Dell'Utri ha acquistato una pagina del Corriere a insaputa del reo per far arrivare al marito affetto e solidarietà degli amici. Vabbè, questa polemica la trovate sui giornali. Siamo al momento decisivo? Al momento più che decisivo, ormai decisivo, niente, mi è entrato nella testa, me lo sogno di notte. Al momento conclusivo, quello dell'assegnazione del premio La Carta Costa di oggi, e in settimana forse attribuiremo la coppa che è arrivata in redazione, la coppa della Carta Costa al vincitore. Vince la tappa odierna Il Giornale ed è in testa la classifica con Pamela Dell'Orto, l'ultima moda dei VIP. Vestire come un crucco, un'intera pagina corredata di foto per farvi sapere, cari italiani, che quest'anno il modello sandali da turista e calzini non sono più bollati come un look da tedesco in ferie, li indossa anche Obama, e quindi c'è anche la versione glamour per le donne, e quindi va bene, vestite pure con sandali e calzini e non sentitevi dei crucchi sfigati, ma delle persone alla moda. Alla page, mamma mia, ah. 24 mattino. Sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui, vogliamo parlare, cari ascoltatori, di canone della RAI, soprattutto di un canone particolare. È vero che questa è la tassa, come abbiamo detto, forse più odiata da molti italiani, è anche vero che è la tassa più evasa da molti italiani, tutti noi conosciamo personalmente, anch'io, persone che in maniera sfacciata ti dicono il canone della RAI, ma io non lo pago il canone della RAI, e questo non è certamente un bene. Parliamo però di quello che sta succedendo, e ci arrivano anche varie segnalazioni qui in redazione da giorni. Moltissimi titolari d'azienda, titolari di partite IVA, hanno ricevuto ultimamente richiesta di pagare un canone RAI speciale del costo di 407,35 euro. È capitato anche a voi? Se vi è capitato, ditecelo all'800 24 00 24 e chiamateci. Perché? Perché questo canone è chiesto a tutte le aziende se hanno, per esempio, dei monitor del PC che sono atti alla ricezione radiotelevisiva. E sapete che il canone della RAI è una tassa sul possesso di qualsiasi strumento che permette la ricezione televisiva. Allora, di questo e anche di altro vogliamo parlare con il sottosegretario all'economia Giovanni Legnini, che saluto. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a lei. Benvenuto. Allora, mi lasci salutare anche Alberto Bernia, che è il direttore della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccole e Medie Imprese di Como Lecco. Buongiorno, benvenuto. Direttore, voi quante segnalazioni avete avuto di questo tipo di canone? Molte, quante non lo so dire, ma più di 50 sicuramente. Cioè, arrivano segnalazioni alle aziende a dire dovete pagare 407,50 euro. Certo, da 200 a 400. Diciamo. Da 200 a 400. E come reagiscono i vostri associati? Prima pensano, ma sarà giusto, e poi sono molto incazzati. Ecco, giusto per essere stringati, ma per capire la situazione. Però oggi il giornale racconta che i membri del CDA della RAI hanno fatto sapere che è una legge vecchia. Semplicemente, che cosa cambia? Che adesso la RAI, cioè questa legge c'è da sempre, che permette... Sì, da 38. Esatto, ma che solo ultimamente la RAI, diciamo, per combattere anche l'evasione del canone, sta cercando, come dire, adesso basta, cioè, come dire, era prima che eravamo stati più lassisti magari nel non chiedere questa imposta. Io penso che sì, forse nel 38 non si era ben coscienti cosa sarebbe successo, ma lo stupore non è tanto nel ricevere queste richieste assurde, e poi quando le approfondiscono, per cui si rendono conto che il più delle volte non la devono pagare perché non posseggono strumenti atti alla ricezione, se non magari attraverso internet, delle frequenze radiofoniche, e altri la devono pagare semplicemente perché hanno dato un telefonino al loro dipendente, devono pagare il canone della radio perché su sull'iPhone si può sentire la radio. No? E mai più avrebbero pensato che comprando un telefonino magari per un dipendente avrebbe dovuto pagare anche un canone, oltre che alla compagnia telefonica, anche alla radio. Certo. E però d'altronde diciamo, o si cambia la legge, lo so che è duro e è molto triste, ma o si cambia la legge o con la legge in vigore la richiesta è, ahimè, legittima. Però capisco, come dice lei, che questa cosa faccia molto arrabbiare, diciamo così. Allora, sottosegretario Legnini, intanto questo problema lo conoscevate, è esploso in questi giorni, perché secondo lei è venuto fuori? Ma come diceva, la norma è antica, l'obbligo è un obbligo che vige da molti anni, la RAI sta promuovendo iniziative, come lei diceva, finalizzate a recuperare l'evasione dal canone. Ora, in termini di principio, i destinatari, i soggetti obbligati a pagare questa imposta sono facilmente individuabili, in termini concreti un po' meno. La difficoltà, al di là adesso della discutibilità o iniquità di un canone di questo tipo, di cui poi se vuole parleremo, ma c'è un problema di applicazione, di interpretazione, di modalità attraverso la quale le imprese, i professionisti sono stati raggiunti da questa cosa. Ecco, cioè, perché mi faccia capire, in teoria è destinato, che ne so, a hotel, bar, gli esercizi pubblici che potrebbero avere effettivamente l'utilizzo della televisione. Non in teoria, ma normativamente sono questi soggetti ad essere obbligati, quelli cioè che utilizzano apparecchi radio televisivi o altri apparecchi che sono adattabili a quell'uso, all'origine adattabili a quell'uso, per lavoro, quale strumento di lavoro. Certo. E perché invece è arrivato un po' a tutti? Molti artigiani dicono, magari uno paga, lo vivono come una vessazione, come un tentativo di estorcere dei soldi. Ciò che fa capo al Ministero dell'Economia, allora io non voglio avere un atteggiamento da scaricabarile, non è questo, perché poi il cittadino ha diritto di chiedere spiegazioni innanzitutto al governo, ci mancherebbe. Però ecco, ciò che è di peso da noi attraverso l'Agenzia delle Entrate è il risultato chiaro, vi è una circolare interpretativa che chiarisce con precisione, dopodiché c'è una modalità attuativa dell'obbligo che attiene al soggetto beneficiario, in questo caso la RAI. Quella comunicazione che è arrivata a milioni di partite IVA, si poteva fare meglio? Sì, si poteva fare meglio, si poteva essere più chiaro e più preciso. Selezionare proprio le persone che lo devono pagare. A individuare con precisione i destinatari. Adesso, insomma, questo ha determinato, come si diceva, anche un pasticcio. Ho capito, ma questi cosa devono fare? Le persone che non devono pagare, pagano. Comunque, al di là della, che fanno? Stracciano il bollettino. Non esemplare chiarezza della comunicazione, però nella comunicazione occorre dire che è indicato che chi non è tenuto, perché appunto non dispone di apparecchi di quel tipo, può compilare un modulo, una cartolina, molto bene, e rinviarla alla RAI per autodichiarare. Mi faccia capire, per esempio, l'esempio che ci ha fatto Bernia, cioè se uno ha un telefonino di questi apparecchi dove ci può essere la ricezione. Non è tenuto a pagare, assolutamente no. Cioè, se è un'azienda che non c'entra nulla, tutti tenuti a pagare. Ma è chiaro, perché su questo Bernia, cioè, come dire, è chiaro che i vostri, secondo degli iscritti, ma sbaglia il sottosegretario, perché nella lettera non c'è nessun modulo allegato di comunicazione. Quelli privati sì, ma le aziende no. Le aziende. C'è solo una minaccia dicendo: sappi che se leggi la comunicazione, dopodiché vai a verificare se hai o no su una tabella che non è allegata. E dopodiché ti dicono, e sappi che se non paghi è una multa, non c'è nessun modulo di comunicazione. E sul canone radio, purtroppo ho ragione io, sulla radio, parlo del canone radio, che è lo stesso. Cioè, faccia capire, Bernia, ma le persone che hanno ricevuto questo canone hanno pagato, cioè le hanno anche detto, qualcuno di noi ha già pagato, perché per timore, magari uno 400 euro dice, le pago, perché sennò qua adesso arrivano... Ma per la verità dei 400 euro non ho sentito nessuno pagare, anche perché è un elettricista piuttosto che un tipografo, non vedo, quando riceve questa cosa dice televisione, perché il sottosegretario dice infatti il sottosegretario dice non devono pagare, ma non pagano perché non hanno nessuno strumento atto a. Il problema è che quando poi leggono la tabella approfondita, per cui vedono veramente l'iPhone riceve la radio e quindi sarei tenuto, perché non c'è scritto, però c'è scritto tutti che detengono al di fuori. Sì, effettivamente questo sottosegretario, abbiamo detto tante volte che la tassa, il canone della RAI è la tassa sul possesso semplice di uno strumento atto a ricevere, quindi se uno ha un telefonino che riceve la radio, in teoria il sottosegretario dovrebbe pagarla questa secondo la legge. C'è chiarimento, l'apparecchio deve essere all'origine destinato o destinabile a quella finalità, non è che chiaro che quando fu emanata la norma appunto in epoca antichissima, e c'è un problema evidentemente di precisazione, non c'era l'evoluzione tecnologica, dico una cosa banale, ovvia, scontata, però mi lasci dire che devo contraddire ciò che veniva detto. È scritto e detto che il contribuente, se è tenuto, paga, se non è tenuto comunica, non paga. Cioè, adesso questo, ripeto, io credo che questo pasticcio non si doveva determinare, questo pasticcio più comunicativo che non impositivo, sì. E quindi comprendo perfettamente le imprese, però ecco, non siamo in presenza di un'estorsione di denaro. Beh, insomma, Oltrepassiamo certi limiti. No, è chiaro. Credo che in genere sono anche persone qualificate, sono persone che lavorano, alle quali non dobbiamo far perdere tempo nel fare queste cose, ecco, questo è il punto. Infatti. Però ecco, il soggetto che ha ricevuto questa lettera, se non ha uno di questi apparecchi, non paga. Punto. Cioè, le chiedo questo, ma mi faccia fare qualche domanda politica, sottosegretario. Non è che la RAI, siccome deve pagare 150 milioni, che avete chiesto voi del governo, trova dei mezzi per cercare di recuperare un po' di soldi? Ma non è così, perché è prevista nella norma contenuta nel primo pacchetto di revisione della spesa pubblica, quella per intenderci degli 80 euro, che la RAI può mettere sul mercato una quota della RAI Way che è capiente, più che capiente, per coprire i 150 milioni. Sì. Di contributo. Quindi non è vero che Mediobanca l'ha valutata 1 miliardo? Sì, sì, mi risulta adesso la valutazione è in corso, quindi insomma, ma mi risulta che il valore sia sovrabbondante rispetto a quell'obbligo di contribuire alla manovra che è stata fatta, che abbiamo detto. Dopodiché c'è un tema più generale, il canone. Ecco. Su questo c'è una riflessione, riguarda i cittadini, le famiglie, riguarda le imprese, i professionisti. Nel tempo questa imposta da un lato è stata sempre più ritenuta ed è sempre più ritenuta odiosa, diciamo così, anche a fronte dell'evoluzione del mercato televisivo, della pluralità di offerte, eccetera. Dall'altro vi è una quota di evasione molto elevata e aggiungo io una mia opinione personale, la quota di evasione in genere per un tributo si accresce non soltanto per effetto delle difficoltà delle famiglie e delle imprese, ma si accresce quando si avverte di più l'iniquità, diciamo così. È chiaro. Infatti io, come ho detto all'inizio, come è giusta viene pagata. Infatti molte persone in maniera sfacciata lo dicono tranquillamente: io il canone della RAI non lo pago. A questo proposito, però, si pone questo tema e c'è una riflessione in atto. Infatti lei fa parte della troica, diciamo, che deve vedere come riformare la RAI. A proposito del canone, me lo dica la sua opinione personale. Si parla molto di legarlo alla bolletta, coordinarlo con la residenza, rapportarlo al reddito, lei come la vedrebbe? Ma guardi, questa della troica è una ricostruzione un po' giornalistica, vabbè, ciascuno di noi ha delle competenze, al di là di questo. Di valutare sotto il profilo finanziario misure che possono, diciamo, aiutare a superare il l'evasione. Canone. Lei lo legherebbe? Ma anche il canone. Ah, è chiaro. Non è una cosa semplice, perché parliamo di un gettito stimato annualmente in 1.700 milioni, se in ipotesi, io non so se sarà questa la decisione, ma lo deciderà il governo nella sua collegialità, ma se si arrivasse a un'abolizione del canone, in ipotesi noi dovremmo trovare, se vogliamo continuare a mantenere il servizio pubblico, 1.700 milioni. Ma secondo lei è ipotizzabile un'abolizione del canone addirittura? Ma guardi, io penso che noi dobbiamo avviare un percorso rapido per superare questo sistema di contribuzione al servizio pubblico radiotelevisivo, nel contempo mantenendo saldo l'integrità del servizio pubblico. Del servizio pubblico, sottolineo, perché la RAI fa più, adesso non voglio invadere competenze altrui, è una riflessione molto complicata, ma insomma la RAI fa servizio pubblico, ma fa anche attività, trasmissioni che poco hanno a che vedere col servizio pubblico, quindi è una riflessione molto delicata, sì. No, è chiaro. Ma secondo me bisogna farla, d'altronde anche il Presidente del Consiglio ha dichiarato pubblicamente che questo percorso di riforma della RAI, dentro la quale c'è anche questo tema del canone, si farà non nel alle calende greche, ma si farà entro, pare entro la fine dell'anno. Entro l'anno. L'ipotesi invece di legarlo alla bolletta, lei come la vede? Ma personalmente? Allora, io sono perplesso personalmente, è non perplesso. Esprimo una posizione del governo, ma esprimo una mia posizione personale per questa ragione, che nel mentre quello strumento potrebbe garantire una maggiore efficacia del sistema della riscossione, perché appunto, come dicevo prima, la bolletta elettrica viene pagata da tutti, o comunque l'evasione è molto molto limitata, anche perché ci sono le conseguenze che sappiamo se non si paga la fornitura di corrente elettrica, e però noi siamo in un momento nel quale vi deve essere un'operazione di riduzione della bolletta elettrica, e appunto per le imprese questo percorso è già iniziato, come sappiamo, con la misura di riduzione del 10% contenuta nell'ultimo decreto. Nel momento nel quale carichiamo lì la percezione, certo è peggiore, percezione che non un'effettività, è che il totale della bolletta aumenta. Avrebbe l'effetto questa cosa ha una controindicazione che non è solo di sensazione, ma c'è anche altro. Io sono molto perplesso. Allora, io ringrazio, devo liberare il sottosegretario Giovanni Legnini, grazie per essere stato con noi, sottosegretario all'economia. Rimane invece con noi Alberto Bernia ancora dopo la pubblicità, perché ci saranno sicuramente tante chiamate di persone, c'è chi mi scrive in laboratorio, vi sto ascoltando in radio, che devo fare? Devo pagare il canone? C'è molto, molto allarme, giustamente comprensibile. Oggi addirittura il giornale dice questi sono i mangiasoldi di Stato, emette le foto degli 8 membri del CDA della RAI. Beh, insomma, questa è l'accusa molto dura, dire che pretendono il canone farsa, scrive il giornale. In realtà loro dicono si applica una legge, non è che adesso si può sempre personalizzare tutto, la legge c'è. 24 mattino. Allora, alle 8:40 con noi c'è ancora Alberto Bernia, che ricordo è il direttore della Confederazione Nazionale Artigianato delle Piccole e Medie Imprese di Como Lecco, la CNA di Como Lecco. Bernia, sa quanti ascoltatori ci stanno chiamando? Adesso ne sentiamo un po'. Ma intanto, se posso dire una cosa al sottosegretario, che per amor del cielo la legge risale al 38, sotto i tanti, la legge è sempre quella. Però che dovrebbe essere chiarire bene, perché il direttore della RAI la pensa diversamente da lui. Sì. Io sono convinto anch'io che è l'uso che se ne fa, non il possesso. Ma io credo che la legge è diversa, cioè l'ascoltatrice, esatto, che ci dice. Tutti. No, ma l'ascoltatrice che ci scrive: io vi ascolto in radio, in laboratorio, devo pagare. Temo, cara signora, temo di sì, secondo la legge, secondo l'interpretazione che il sottosegretario ci dice, ma no, lei non fa, che ne so, che lavoro, certo, non so che laboratorio abbia. La magheria è assolutamente. Certo. Esatto, se è un laboratorio artigianale e non ha un bar, non ha un hotel, non ha un esercizio pubblico che utilizza la TV così, e non dovrebbe pagare. Ma secondo la legge sì, basta il possesso di uno strumento. 29 euro di canone radio deve pagare, questo è il problema. Mentre i venditori di macchine l'hanno vinta qualche anno fa e hanno detto l'autoradio non paga, gli altri dovrebbero così la Cottato, dà una risposta anche a molti che ci chiedono proprio sull'autoradio, l'auto aziendale, l'autoradio, invece quelli non pagano. Comunque, sentiamo gli ascoltatori. Raffaele da Bari, buongiorno. Lei buongiorno. Che dice? Niente, anch'io ho ricevuto, posseggo partita IVA e ho ricevuto la comunicazione. Cioè, che lavoro fa? Allora, lei avendo solo la partita IVA? Sì, io sono consulente aziendale, ho solo partita IVA, ho un ufficio. E com'è questa comunicazione? Che le hanno chiesto? Ma perché, vabbè, il trucchetto è questo, l'hanno mandato secondo me a pioggia, cioè raccogliamo tutto quello che possiamo. Ma guardi raccogliere. Che il consigliere della RAI, Verro, lo ha dichiarato, oggi lo scrive il giornale, la legge c'è da sempre, semplicemente ora la RAI non è più disposta a chiudere gli occhi rispetto al passato, quindi dica Raffaele. Come mai adesso, solo adesso aprono gli occhi? Allora io contesto due cose, il tono vessatorio. È vero, perché ti dicono, a parte che mi sono fatto tutto io i controlli, sono andato sul loro sito, cioè loro non allegano niente, tu devi perdere la mezz'oretta, andare sul sito, ricercare le cose e poi vedere se devi pagare o non pagare. Però poi loro mettono sotto, come diceva il rappresentante del compartigianato, ti dicono comunque sei soggetto a controlli. Comunque in ogni caso la mezza porta aperta per un controllo loro te la lasciano. Uno. Due, volevi recuperare soldi perché l'operazione sembra di questo genere. Allora, cioè, ancora una volta, si dimostra la limitatezza mentale dei nostri politici. Vuoi recuperare soldi? Perché quando è stata messa la cosa del decoder digitale terrestre, Cioè io compravo il digitale terrestre e tu mi registravi i dati. Ma perché si è detto spesso che anche questo è come quando si dice perché Sky non fornisce l'elenco degli abbonati alla Rai, è un contenzioso aperto o un dibattito tra Sky e Rai, ma sa, lì si viola anche la privacy, sono tante cose. Però Raffaele, la ringrazio, così do spazio anche ad altri ascoltatori, immagino che tutti siano in una situazione del genere, ve l'avevo detto, sono tantissimi cittadini. Marco da Pordenone. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Sì, anch'io ho ricevuto la comunicazione di 400 rotti euro. Io ho un'officina ortopedica e mi sono cascata in traccia perché dentro mia officina c'è di tutto tranne che un qualche cosa, una TV, una radio. Cioè, piedi, gambe, braccia. Questo mi ha fatto veramente male. E quindi che fa? Paga, non paga? In teoria ha sentito il sottosegretario. Lei non deve pagare, ma che... No. Come che ne so? Io non dovrei pagare, ho perso tempo, sono andato dal commercialista, gli ho detto mi è arrivata questa cosa dobbiamo fare? E che le ha detto? Si informerà. Mi è arrivata esattamente venerdì. Guardi, ripeto, secondo quello che ha detto il sottosegretario, avendo lei un'officina ortopedica non deve pagare, però sa, non è che le posso, poi non se la prenda con me se poi dopo... No, per carità di Dio. Le vengono a chiedere in realtà i soldi. Marco, la ringrazio, rimarrei con un altro Marco da Torino, però mi sposto lì. Buongiorno Marco. Buongiorno. Io ho ricevuto, come gli altri ascoltatori, la richiesta di pagamento, però diciamo forse la mia situazione è diversa dagli altri, nel senso che io ho chiuso la partita IVA, avevo una ditta individuale, quindi ero un consulente, e l'ho chiusa a settembre del 2013. E nonostante ciò gli è arrivata la richiesta? Mi è arrivata la richiesta, adesso evidentemente io la forse prima cosa che farò si basano è quello... sugli iscritti dell'anno precedente, quindi insomma sono andati in automatico. Ma sì, probabilmente sì, però effettivamente io ho trovato quella cartolina allegata diciamo all'interno della comunicazione. Non c'è uno spazio diciamo preposto eventuali, se non una piccola riga dove dice eventuali altre comunicazioni, quindi tenterò attraverso questa cartolina di addirittura comunicare. Lei si trova Marco nella situazione, ha sentito la ringrazio Marco, Alberto Berni ha sentito la situazione di aver chiuso la partita IVA nonostante ciò gli è arrivata la richiesta. Secondo me il problema vero è che la RAI dice che bisogna comunicare di aver chiuso. Cioè di comunicare, certo, perché se uno legge l'istruzione della RAI dice sì, anche se tu hai chiuso e non l'hai comunicato devi pagare. Cioè, ma che sì, perché siamo all'assurdo, nel senso che il problema è che il sottosegretario ha ragione lui, ma deve farlo dire al direttore della RAI questa cosa, deve farci sentire tranquilli, perché cioè, è chiaro che questa cosa che anche il buon senso vorrebbe, no, e bisogna fargliela capire alla RAI, perché altrimenti... No, certo, mi faccia capire, Berni, lei che rappresenta in questo caso alcune imprese, alcune partite IVA, alcune aziende, che ne pensate? Perché oggi il giornale dice è l'ennesimo, come dire, l'ennesima vessazione nei confronti di chi lavora da parte dello Stato. La percepite così in uno Stato in cui c'è già una pressione fiscale altissima? Viene vissuta assolutamente così, anche perché la RAI, non dimentichiamoci, per noi è lo Stato, cioè per la gente normale è lo Stato, è pubblica, è una tassa normale. Male, per cui come le altre tasse, no? E viene vissuta assolutamente così, l'ennesima amministrazione oltretutto confusa, e poi l'assoltato di bene, cioè devo andare dal commercialista per chiedere cosa devo fare di una lettera ricevuta dalla RAI, ma dai, una follia. È una follia. No, ma una follia anche perché mi segnalano mentre parlo, mi segnalano anche amici, conoscenti, rappresentanti. Mi ha scritto per esempio il rappresentante di Apindustria Vicenza dire che arrivano a società metalmeccaniche, aziende che non c'entrano nulla appunto con a partite IVA, abbiamo visto, a laboratori, ad artigiani, all'azienda ortopedica dell'ascoltatore di prima, persone che non c'entrano nulla con la vicenda raccontata dal sottosegretario dell'economia di chi ha magari un esercizio pubblico, ma questo è, rimanga con noi Berni. Intanto io voglio salutare per cambiare un pochino tema il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, dopo il traffico sono da lei per capire che sta succedendo a Bergamo tra un attimo, abbia pazienza. Allora, Giorgio Gori, noi l'abbiamo chiamata, io l'ho chiamata per questa vicenda delle panchine, però non so se ha sentito, comunque in coda abbiamo parlato fino adesso del canone della RAI, ha sentito che ci sono migliaia di imprese che stanno ricevendo questa richiesta di canone da 407 euro. Lei che di comunicazione se ne intende, no? E nel mondo della TV ha vissuto per anni, ma questa storia del canone della RAI, lei se fosse mai stata in RAI, come l'avrebbe cambiata? Ma insomma, se fossi stato in RAI avrei fatto il possibile per ottenere dal governo misure per consentire il recupero dell'evasione, perché parliamo di cifre molto importanti che incidono sul bilancio della televisione pubblica, e quindi il fatto che si vada a sollecitare il pagamento da parte di chi non l'ha fatto fino ad oggi mi sembra normale. Normale, anche se ci sono molte imprese che dicono arrivano dei bollettini a 407 euro, magari imprese artigiane, anche se non so, ha sentito questa vicenda, però in realtà dice la legge è questa, è che fino adesso non si è pagato, insomma. Appunto. È ci sono strumenti, insomma, da molto tempo si parla per esempio dell'inclusione del canone della televisione pubblica nella bolletta della luce, eccetera. Insomma, se, anche soltanto recuperando il canone che è stato evaso, che normalmente viene evaso, la RAI avrebbe la possibilità di praticare quei risparmi che il governo gli chiede. Ma infatti non si capisce quello perché non si faccia, ma anche prima il sottosegretario Legnini ha detto: a me è una misura che non piace molto, quello della bolletta, perché poi si va a gonfiare il prezzo delle bollette e c'è la percezione che invece le bollette dovrebbero diminuire anche per le imprese, invece così c'è la percezione che aumentino. Vabbè, percezione, dato di fatto che c'è un 30% almeno di italiani che non paga il canone. Questo sì. Allora, primo provvedimento che lei tra l'altro aveva annunciato a Bergamo e lo ha fatto è quello di aver tolto le panchine. Sa che noi avevamo ospitato l'assessore della precedente giunta, anzi il sindaco credo, che aveva messo le panchine anti-clochard, così erano definite, no? Perché lei le ha fatte togliere invece? Ma insomma, le avevo molto criticate quando erano state messe a fine aprile, ritenendole proprio un segno di esclusione, che non dava conto dell'atteggiamento invece fortemente inclusivo, solidaristico che la città esprime nei confronti delle persone che hanno una condizione di marginalità, di povertà, eccetera. E siccome era una cosa molto semplice alla fine farle togliere, era una semplice disposizione, non richiedeva grandi studi o delibere complesse, l'abbiamo fatto subito. Sai che a Vancouver addirittura sono le panchine per i clochard con il tetto. Cioè per l'ho visto. In modo da ripararli, in modo da dormire in maniera un po' più comoda. Ma insomma, quello era secondo me un segno veramente un po', insomma, che non dava una buona immagine della città. Anche perché appunto è finito su tutta la stampa nazionale, sui telegiornali. Bergamo è un'altra cosa, sinceramente. Però secondo lei è su queste cose proprio che i sindaci poi si giocano parte? Spesso c'è stato un dibattito qualche anno fa se essere di sinistra volesse dire anche essere per la legalità, il dibattito sui sindaci di sinistra che però erano abbastanza intransigenti su alcune cose. È su queste cose qui che secondo lei si misura la credibilità di un'amministrazione comunale? La credibilità si misura su molteplici aspetti, questo è soltanto uno. Personalmente sono dell'idea che la sicurezza sia un argomento che va presidiato e che la sinistra, secondo me sbagliando, in passato ha lasciato invece alle forze politiche del centrodestra. C'è una percezione diffusa di tutti i cittadini di insicurezza, sostenuta anche dal fatto oggettivo che siano aumentati gli episodi di microcriminalità, i furti eccetera. Io non capisco perché noi non dobbiamo occuparcene, ma questa cosa, cioè quella della sbarra che divide la panchina, impedisce anche soltanto di sdraiarsi per qualche istante, è tutt'altro, non c'entra niente, ha a che fare invece con la povertà e la responsabilità che mi sono preso, che ci siamo presi con l'amministrazione, al di là del fatto simbolico, è quello di prenderci cura di queste persone, perché non è sufficiente dire togliamo la stanga di ferro, bisogna fare delle politiche che consentano di prestare loro aiuto nelle situazioni di emergenza e avvino dei percorsi di no, ma è chiaro, però se lei ha visto per esempio il neosindaco di Padova, Bitonci, della Lega, invece ha avuto una politica magari più legata al partito a cui appartiene, un po' più dura, intransigente sulla sicurezza. Cioè quello voglio dire, che perché i primi provvedimenti in genere dei sindaci riguardano sempre il tema della sicurezza, forse perché sono i provvedimenti, come ha detto lei, più facili da prendere in tempo zero. Il nostro questo caso assolutamente sì, soltanto perché era una cosa che si poteva fare in mezza giornata. In realtà ci siamo messi a lavorare su tutto il resto e quindi non è che abbia un carattere di priorità rispetto ad altro. Certo, ha una valenza simbolica e se ne è parlato sia quando sono state messe sia oggi che sono tolte. Sono state tolte. Intanto la ringrazio, sindaco, grazie per essere stato buona con giornata. Noi. Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo del Partito Democratico. Vogliamo chiudere gli ultimi 3 minuti ancora con Alberto Bernia, con cui abbiamo iniziato, e anche gli ascoltatori. Continuano ad arrivare, Bernia, le segnalazioni di questa vicenda del canone. Vabbè, ha sentito Gori dire però va pagata. Effettivamente questo canone, al di là della vicenda, cioè se c'è un'evasione fiscale, si mettono in atto tutti gli strumenti. Mi faccia spezzare una lancia, adesso vado controcorrente. Cioè la RAI che dovrebbe fare fin tanto che c'è questa legge, che non è stabilita dalla RAI, è stabilita dal Parlamento, se la vuole cambiare la cambiasse il Parlamento. Cioè cosa dovrebbe fare? In realtà, no, ma il problema è che la tassa non è neanche stabilita in questo Parlamento, l'ha stabilita un legge di decreto del 38. Certo, dai, è ridicolo. No, ma sarà ridicolo, ridicolo, ma se lei fosse l'amministratore della RAI, cercherei di incassarla, certo. Cercherebbe di incassarla. Perché dal 38 oggi immagino che qualcuno abbia dovuto cambiare qualcosa. Sì, ma il Parlamento, è il Parlamento che doveva cambiarla. È il Parlamento. Infatti il sottosegretario deve chiarire quello che ha detto, ma lo scrive dal Parlamento, non c'è dubbio. Infatti, la questione da dire è chiaro che non è da pagare, però in realtà arriva nei bollettini. Sentiamo anche Alessandro da Milano, ci chiama. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, Alessandro Milano. Io sono forse uno dei pochi, o forse siamo in tanti, non lo so, che dal 2007-2008 sto lottando con questi 407 euro. Perché? Avevo aperto un negozio di Blockbuster, sì. C'era il video per la pubblicità interna, no? Sì, quindi certo, quello che ricordo, fa girare all'interno. Ricordo. Mi è arrivata la cartella per pagare per il canone RAI, io ho contestato, mi hanno mandato 2 messi e da lì sono iniziate raccomandate su raccomandate. Sì. Unitamente poi anche alla perdita del tempo e a un sequestro cautelativo che ho sulla mia macchina, perché secondo loro io utilizzo quel video, utilizzavo, adesso ormai Blockbuster è chiuso, utilizzavo quel video per la... è incredibile. E quindi la sua vicenda va avanti la sua vicenda? Sì, è ancora in corso. Addirittura ancora il sequestro sulla macchina? Cautelativo sulla macchina, perché poi la cartella passa a Equitalia e quindi arriva il tutto. Vabbè. Io ho perso più soldi nel difendermi e questo è quello che mi dà fastidio a me. Che ne avrebbe spesi pagando. Come vedete, cari ascoltatori, so che Oscar Giannino ne parlerà alle 16.30, sempre qui a Radio 24. Come vedete, il tema è molto, molto caldo. Io ringrazio Alberto Bernia, non è neanche escluso che ci torneremo. Intanto con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi e con il nostro alpino Peter Bescapè vi diamo l'appuntamento a domattina alle 6:30 puntuali. Siamo qui. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.